sta crescendo notevolmente l'incidenza. Ieri eravamo a 201, il valore più alto da inizio pandemia, quindi da marzo del 2020, e oggi tocchiamo un nuovo record che è 213. I contagi aumentano di giorno in giorno. La scorsa settimana abbiamo toccato un record di circa 37.000 contagi in un giorno, con 194 morti, mentre ieri i numeri erano un po' più bassi, circa 15.000, oggi risalgono di nuovo a 23.000. Diciamo che in Germania è molto difficile fare paragoni da un giorno all'altro, si paragonano i numeri tra una settimana e l'altra, e i numeri ci dicono che l'incidenza sta crescendo. Ci sono delle zone in cui l'incidenza è arrivata quasi a 1.000. Tra l'altro c'è un punto molto interessante, che l'incidenza per fasce di età è molto diversa. Diciamo che al momento l'incidenza più alta è nei ragazzi fino a 13 anni e si raggiunge quota 301, la seconda fascia è i ragazzi fino a 35 anni e fino a 50 anni, quindi diciamo che le fasce di popolazione più anziana hanno un'incidenza di Covid più bassa rispetto alle fasce più giovani. Che cosa sta succedendo? Al momento abbiamo una saturazione delle terapie intensive, quindi diciamo che sono occupate circa l'85%, di cui oltre quasi il 15% da pazienti Covid, e i medici di terapia intensiva hanno lanciato un allarme dicendo: se questo è il ritmo di crescita del virus a questa velocità, noi a breve avremo le terapie intensive piene, cominceremo ad operare in stato d'emergenza. Quali sono le ragioni per cui si registra questa nuova ondata? Diciamo che senza dubbio il tasso di vaccinazione è basso, ossia qui in Germania abbiamo un tasso di vaccinazione che è più basso rispetto a quello dell'Italia, circa il 67%-70% delle persone è completamente vaccinato, e questo sicuramente ha un ruolo in questo. Inoltre le misure, ossia la Germania ha iniziato a riaprire molto prima dell'Italia su diversi aspetti: non veniva richiesto una sorta di green pass all'italiana, quindi per spingere le persone a vaccinarsi c'era la regola del 3G, 3G significa genesene, getestet und geimpft, ossia guariti, testati e vaccinati. Al momento quello che si sta pensando è di togliere l'ultima G, ossia la getestet, quindi spingere le persone a vaccinarsi per accedere a diverse iniziative culturali, ristoranti, concerti, club, facendo un esempio di Berlino, e questa è la misura che Berlino sta introducendo, insomma, sulla falsariga dell'Austria, ma anche diversi altri länder, ad esempio il Baden-Württemberg a sud-ovest e la Baviera. Tra l'altro Baviera e Baden-Württemberg che registrano delle incidenze record, e sono due länder dove il tasso di vaccinazione è piuttosto basso. Un'altra cosa, frequentando un po' l'Italia e un po' la Germania, ho notato che, facendo un esempio di un locale, si entra con il Green Pass ma non c'è distanziamento e non c'è mascherina. Inoltre qui non viene chiesto il Green Pass al lavoro. Però insomma, si parla già di possibili lockdown o ancora no? Ancora non si parla di possibili lockdown, diciamo, e anche se se ne parla un minimo, si parla di lockdown per i non vaccinati, ecco. Diciamo che la politica sta puntando molto sul restringere, diciamo, la vita sociale per i non vaccinati. Si sta discutendo di queste nuove misure che dovrebbero arrivare a breve, perché il 25 novembre scadrà lo stato di emergenza, e quindi si stanno ipotizzando nuove misure, ma non è ancora chiaro. Diciamo, sicuramente potrebbe entrare in vigore la regola del 2G, quindi togliere la possibilità di testarsi per spingere le persone a vaccinarsi. Tornando un attimo alla questione del numero di vaccinati, dicevi appunto è più bassa rispetto all'Italia. Questo dipende da cosa? Dalla difficoltà organizzativa, da uno scetticismo dei tedeschi nel vaccinarsi, da quali sono i fattori? Ma diciamo che c'è uno scetticismo dei tedeschi a vaccinarsi, anche se oggi il quotidiano Tagesspiegel dice che Berlino sta vivendo adesso, in questi ultimi giorni, una rinnovata onda di vaccinazioni, forse dato proprio dalla spinta di queste nuove misure che la politica vorrebbe introdurre. Diciamo, c'è sempre stato uno scetticismo, ritornando a dicembre dell'anno passato, quando arrivarono i primi vaccini, i sondaggi dicevano che in Italia c'era una maggiore disposizione da parte della popolazione a vaccinarsi rispetto alla Germania. Quindi c'è un certo scetticismo, ma anche non solo sul vaccino del Covid. Ricordo che nel 2017 nel quartiere di Prenzlauer Berg di Berlino ci fu una tremenda epidemia di morbillo, perché i bambini non si, i genitori non lasciavano i bambini vaccinarsi, ecco. Quindi diciamo la società è piuttosto scettica sui vaccini in Germania, tradizionalmente.